Erano anni che non si vedeva un'edizione del premio Strega così avvincente. Nelle ultime edizioni, fra il primo e il secondo posto, c'era stato anche un minimo scarto, ma stavolta la situazione si è ribaltata in un rush finale. Alessandro Piperno, autore Mondadori del romanzo Inseparabili, ha vinto lo Strega con 126 voti. Nello spoglio parziale era stato quasi sempre secondo, la vittoria con gli ultimi 50 voti. Un'emozione che Piperno ha vissuto così. C'è stato un certo punto che ero sicuro di aver perso. Non ho altre cose se non metafore calcistiche, cioè come perdere 3-0 e vincere 4-3 all'ultimo secondo, anzi al quarto minuto di recupero. Veramente una straordinaria emozione, non immaginavo. Solo due voti in meno il favorito della vigilia, Emanuele Trevi, che per Ponti alle Grazie e Gruppo James ha scritto un saggio romanzo su Pasolini. Novità rispetto agli anni scorsi anche un terzo posto di Tutto Rispetto con Gianrico Carofiglio Rizzoli, che ha incassato 119 voti, solo 7 voti in meno del vincitore. Come preannunciato, fuori gioco Marcello Fois, 48 voti, e Lorenza Ghinelli, 16 preferenze. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.